C'era una volta un piccolo naviglio che non poteva navigar. Era lontano dalla riva un miglio, vedeva il porto e non poteva più approdare. Eppure a posto aveva tutti gli attrezzi, compreso chiglia ed il timon. Ma dagli e pesta non trovavan mezzi per far marciare quel balordo carcasson. E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, nessuno riuscì a capire perché, senza più esitar, si rimise a navigar. Le bianche vele, fiocchi e pappafichi, sciolsero tosto i marinar. E il capitano, dai mustacchi antichi, salì sul ponte alla sua nave a comandar. Quando il nostro uomo racconta questa leggenda del mar, tutti in silenzio stanno ad ascoltar, senza nemmeno fiatar. Tremando brilla lucente, l'occhio cercando laggiù, dove nel nulla si perde il mar blu, un sogno che torna più. C'era una volta un piccolo naviglio che non poteva navigare, era lontano dalla riva un miglio, vedeva il porto e non poteva più approdare. Eppure a posto aveva tutti gli attrezzi, compreso chiglia ed il timone, ma dagli a festa non c'erano mezzi per far marciare quel balordo carcassone. E dopo una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette settimane, nessuno riuscì a capire perché, senza più esitare, si rimise a navigare. Le bianche vele, fiocche, pappafichi, sciolsero tosto i marinari, e il capitano dai mustacchi antichi salì sul ponte la sua nave a comandare.